Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un affettuoso saluto a tutti voi da parte di Gesi e di Antonio. Bene, ben ritrovati anche questa sera. Bentrovati alle nostre amiche e ai nostri amici. Sì, io sono contenta perché mi è passata quella brutta influenza che mi ha tormentato per un bel pezzo. E tu Antonio l'hai passata prima di me. Sì. E noi qui stasera abbiamo un ospite proprio in studio. Abbiamo l'ingegner Luigi Crivellaro. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, tu Antonio dovevi dire due paroline. Sì, naturalmente dare un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download della trasmissione sul sito bluradioveneto.it. Naturalmente questa sera, a maggior ragione, con sentimenti, emozioni e ricordi, parleremo di prosa e di poesia. Ma allora, prima di dare la parola al nostro ospite, direi di ascoltarci una canzone. Una canzone che è stata presentata a Sanremo nel 1994 e si intitola Una vecchia canzone italiana ed è cantata dalla Squadra Italia. Prego. Distesa nel mare che in ogni canzone ci parli d'amore. Terra di grano e di fiori, di sole e di vino, di spine e di allori. Terra che resti nel cuore di chi per un sogno ti deve lasciare. Ogni paese ha una festa, una banda che suona. Una piazza, un caffè. Terra di santi e poeti, di troppi mafiosi e pochissimi preti. Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più. Terra rimasta in dolore, la gente che parte per terra lontana. Ma in ogni posto del mondo, dovunque tu vada, da solo non sei. Sentirai una radio che suona canzone, è una storia che nasce da ogni emozione e ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita. Voce di popoli stanchi da forza un'idea che non muore più. E in ogni casa del mondo arriva volando dipinta di blu. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro ingegner Crivellaro che ci parlerà di alcuni libri pubblicati in questo ultimo periodo. Prego. Allora, intanto buonasera a tutti di nuovo. Sono molto felice di essere qua. Mi fa piacere. Un'altra volta, sono stato qua anche l'anno scorso, a parlare di libri, i nostri primi libri della nostra Biblioteca dei Leoni, che è un marchio che abbiamo registrato e che e che svolge attività di edizione fin dalla primavera del 2013. In due anni, un po' meno di due anni, abbiamo già fatto 40 titoli, abbiamo in catalogo 40 titoli. Ah, però. Però mica e nel prossimo mese di marzo ne avremo altri 10 nuovi da mettere in libreria. E quindi è stata un'attività piuttosto intensa e piuttosto anche di grande soddisfazione, pur nelle difficoltà che un piccolo editore incontra in questo. Sia per i tempi difficili, ma anche perché il mondo dell'editoria è un po' particolare. Io lo sto imparando, lo sto venendo a capirne i problemi un po' alla volta, e ho già incontrato parecchie difficoltà legate in particolare al mondo della distribuzione dei libri. Vabbè, ma non vi sto a tediare con queste cose. Vi dico solo questo, che Biblioteca dei Leoni, allora, continua la sua attività, è considerata una casa editrice piccola ma molto attiva, tant'è vero che, vi faccio un esempio soltanto, l'anno scorso, nel 2014, la nostra casa editrice è stata insignita del premio internazionale Catullo, che è un premio che viene dato a quella casa editrice che si distingue per il suo contributo a favore della promozione della poesia internazionale in Italia. Ci congratuliamo naturalmente, sì. Anche se a scoppio ritardato. Questo premio è stato deciso da una giuria composta da Davide Rondoni, poeta, Paolo Lagazzi, critico letterario, e Antonio Riccardi, direttore letterario della Mondadori. Una giuria qualificata, lo dico per... non tanto per me stesso, ma quanto per i libri che noi mettiamo sul mercato. L'ultima volta abbiamo presentato un libro di Alessandro Pierfederici, sì. Che era molto particolare, un libro molto particolare, mi è piaciuto molto. Sì, sì. Vorrei interloquire un attimo semplicemente per ricordare che, essendo il nostro ospite un ingegnere e un progettista, sembra quasi una contraddizione in termini il fatto che sia anche un editore e, diciamo, un curatore di poesia, di letteratura. In realtà ci sono, come dire, dei casi di studio, tipo Leonardo Sinisgalli, fine poeta, oppure Carlo Emilio Gadda, naturalmente, oppure Luciano De Crescenzo, i quali hanno coniugato in modo egregio la vocazione letteraria, certo. E il rigore scientifico, ecco. Certo. E l'ingegnere Crivellaro ha scritto delle belle poesie, mi sono tanto piaciute, è stata la prima volta che è venuto qui con noi. E adesso stasera, benissimo, vediamo che cosa ci diamo spazio. Grazie Gesuina di queste lodi. Però passiamo ai nostri libri, quindi non miei libri, ma libri della casa editrice. E questa sera io volevo parlare di un gruppo di libri che abbiamo pubblicato nel novembre scorso in vista delle ultime feste natalizie. Sono in particolare vorrei parlare di due libri di storia, tutti e due incentrati sulla Prima Guerra Mondiale, di cui sappiamo che ricorre il centenario a partire dal 2014 in Europa, dal 2015 in Italia. Poi vorrei parlare anche di due libri di un autore di grande prestigio, un latinista, un docente universitario, uomo di lettere, romanziere, poeta, saggista, sceneggiatore televisivo e così via. Si tratta di Luca Canali, che purtroppo è mancato nel giugno 2014, che ci aveva lasciato prima di morire due manoscritti di cui parleremo fra un po'. Vorrei però completare con due testi di poesia, uno dei quali è della poetessa Anna Akhmatova, russa, sì. Naturalmente della prima metà del Novecento, e un secondo testo è un testo di epigrammi poetici di una poetessa trevigiana, Maria Antonia Maso Borso, che è molto apprezzata, sì. E di cui sentirete qualche breve lettura, e quindi capirete perché è molto apprezzata. Abbiamo letto, sì, anche l'ultima volta qualcosa di lei. Sì. Bene. Allora, io comincerei con il primo testo, Vorrei introdurre rapidamente il soggetto di questo libro, che si chiama La battaglia del solstizio. Si parla di grande guerra. L'autore, il curatore di questo testo, è Denis Vidale. È uno storico, uno studioso di storia della Prima Guerra Mondiale di Bassano del Grappa, e ha già pubblicato degli articoli e dei testi, dei saggi sulla Prima Guerra Mondiale, apprezzati anche da importanti riviste britanniche che l'hanno pubblicato. La Prima Guerra Mondiale è un argomento di cui tutti sappiamo qualche cosa. In particolare quest'anno è diventato un soggetto di molti studi, di molti nuovi saggi, di molte riflessioni. Ne abbiamo tutti coscienza di questo evento, ma secondo una lettura che probabilmente è un po' fossilizzata, l'abbiamo sentito definire quasi sempre una inutile strage. È stata una strage, naturalmente, ma è stata anche uno spartiacque fondamentale sia per la storia europea sia per la storia italiana. Noi abbiamo scelto di focalizzarci su questo argomento con due libri addirittura. Uno è questo, La battaglia del solstizio di Denis Vidale, e un secondo, un libro che si chiama Fronte Nord-Est di Massimiliano Melilli, che è un autore, un giornalista giovane di Rai 3. Lo potete vedere, lo potete sentire in televisione, vedere in televisione quando legge le notizie di Rai News 24. È uno studioso di storia e lui ha affrontato l'argomento più rivolto alla narrazione dei fatti fondamentali del conflitto, che da vicino hanno riguardato tutta la nostra regione del Veneto, mentre il primo libro, quello della battaglia del solstizio, è focalizzato, naturalmente, come dice il titolo, su un evento particolare che si è svolto a pochi chilometri da Treviso. Bene, direi che possiamo passare al successivo intermezzo musicale, dopodiché andremo con le letture. Allora, il secondo intermezzo musicale è interpretato da Fausto Leali e la canzone si intitola Mi manchi. Manchi quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mi manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente, sei quel nodo in gola che non scende giù, far finta di star bene, ma mi manchi, ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro la delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Mi eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite. E allora parliamo rapidamente di questa battaglia del solstizio. Cosa è stata? È stata l'ultimo tentativo dell'esercito austro-ungarico di sfondare le linee italiane ed è avvenuta nel giugno del 1918. In particolare questa battaglia si è svolta su tutto il fronte, ma si è concentrata soprattutto nella zona del Piave e di Nervesa e del Montello, dove le truppe austro-ungariche in un primo momento sono riuscite a sfondare e a penetrare nelle linee italiane e per alcuni giorni, per i primi giorni, è sembrato che potessero inondare la pianura veneta, venire ad andare a Treviso, a Padova e così via. Questo libro è stato impostato dall'autore Denis Vidale in modo un po' non come un classico libro tecnico di storia, ma come un libro che si focalizza anche sull'aspetto umano della battaglia, sugli errori, sulla confusione, sulle sofferenze, anche su certi aneddoti poco noti che sono più curiosi, più curiosità che fatti, che diciamo così, considerazioni storiche, che però rendono bene l'atmosfera di quell'evento. Direi che possiamo iniziare da una lettura che riguarda il primo giorno di battaglia, il 15 giugno del 1918. Non prima di avere detto però una cosa importante. A questo libro hanno dato un contributo, come si vede dai due stemmi che sono in copertina, l'amministrazione di Nervesa della Battaglia, amministrazione comunale, e l'associazione La Battaglia del Solstizio, sempre di Nervesa. Perfetto. La nebbia ed il fumo emessi dai proiettili a gas sparati dagli attaccanti contribuirono a rendere praticamente invisibili le truppe che attraversavano. Le prime linee vennero travolte dai reparti d'assalto, seguiti a una cinquantina di metri dai fanti armati di bombe a mano, seguiti a loro volta dal resto della truppa. Il fuoco dell'artiglieria italiana impedì che si gettassero i ponti previsti, costringendo così gli ungheresi a proseguire il passaggio sui traghetti o ad ammassarsi per sfruttare l'unica passerella gettata tra il Soligo e Marcatelli. Secondo il maggiore Adami, mancò il coraggio di avviare un vero e proprio duello di artiglierie che avrebbe impedito qualunque manovra volta ad attraversare il fiume. Ma il mancato afflusso immediato di rinforzi non impedì il proseguimento dell'azione, che in alcuni punti si era compiuta anche prima del previsto. Le truppe delle brigate Lucca e Tevere, assalite all'improvviso, dovettero fronteggiare il maggior peso dell'attacco e, pur resistendo allo stremo, vennero praticamente distrutte sul posto. Caddero tra gli altri i volontari cecoslovacchi che, disertori dall'esercito asburgico, si erano arruolati in quello italiano ed erano stati inquadrati nella legione cecoslovacca. Quanti furono presi prigionieri furono impiccati come traditori, alcuni sulla riva del Piave, altri nelle città di retrovia. Allargandosi ed allungandosi secondo le direttrici previste dal piano d'attacco, le truppe imperiali mossero rapidamente verso gli obiettivi previsti. A metà mattina l'intero saliente nord-orientale era stato occupato e i soldati della 17ª divisione, che si apprestavano ad entrare a Nervesa, raggiungevano quasi per caso la batteria della cucina da campo della brigata Piacenza e se ne impossessavano armi alla mano. Proprio la Piacenza aveva il compito di presidiare la zona di Nervesa, cosa cui aveva in parte provveduto quando, all'inizio del bombardamento, aveva inviato i rincalzi a presidiare la zona compresa tra Villa Berti e Casa Fornace. L'interruzione delle comunicazioni e la mancanza di ordini, tuttavia, aveva giocato la sua parte, tant'è che verso le 9 si ebbe notizia che il nemico aveva sfondato il fronte della brigata Lucca. Inviata una pattuglia della compagnia Arditi col sottotenente G.B. Paolini a Nervesa, si seppe che ivi, ad eccezione di pochi rimasti della sesta compagnia del 164esimo, non vi era più traccia di truppe italiane. Per caso o per fortuna, tuttavia, la brigata Piacenza dovette attendere fino alla sera per scontrarsi direttamente con i nemici. Ecco, avete sentito un breve brano che parla del primo giorno di battaglia. Vi leggo un breve aneddoto. Il primo giorno di battaglia, buona parte dei comandanti ritenevano che lo scontro fosse già perduto. Ne riferisce il tenente medico Cavina, che fu lasciato a Giavera con l'ordine di attendere lo sviluppo degli avvenimenti mentre i suoi superiori fuggivano. L'attacco andò avanti, arriviamo al terzo giorno, credo che sia 17 di giugno. L'attacco era iniziato proprio quando le brigate italiane erano nel bel mezzo dell'avvicendamento, teniamo conto di questo. Esatto. Per cui le truppe in posizione difensiva non avevano avuto modo di orientarsi né di conoscere il terreno, per cui le condizioni della truppa italiana in quel momento erano le peggiori immaginabili. Ipotizzabili. Passiamo quindi al 17 giugno 1918. La notte tra il 16 e il 17 si rinnovò l'attacco a Villa Berti e contemporaneamente pattuglioni nemici con mitragliatrici attaccarono il comando di reggimento, ma furono sempre ricacciati dal fuoco di fucileria e dal lancio di bombe a mano. All'alba del 17 si rinnovò un potente attacco contro Villa Berti, preceduto da un violento bombardamento dell'artiglieria. Nonostante le gravi perdite della compagnia Arditi e delle truppe del battaglione, per la bravura dei difensori e per il rapido sbarramento di fuoco della nostra artiglieria, l'attacco nemico venne respinto. Gli austriaci, che miravano a Ponte della Priula, ritentarono poco dopo un nuovo attacco, estendendolo fino al comando del reggimento, ma anche questa volta, per l'energica resistenza loro opposta, dovettero ripiegare. Nel pomeriggio un altro attacco contro Villa Berti ebbe egual risultato. La brigata Piacenza stava ormai combattendo da sola, ignorando del tutto lo sviluppo del combattimento sul resto del campo di battaglia, dove continuavano a regnare soprattutto confusione e fraintendimenti. Di Giorgio aveva inviato intorno alle 9 l'ordine di avanzare alle 3 divisioni delle sue dipendenze dislocate presso la Quarta Armata, quindi agli ordini del generale Giardino, in modo da alleggerire l'intero fronte, raccomandando che sia esse che altre divisioni già sul campo si considerassero in piena guerra di movimento e a tale concetto si ispirassero. Ma di guerra di movimento sul Montello non si poteva proprio parlare in quel momento. L'ordine fu recepito come quello di abbandonare la linea del Piave sia da diversi comandanti che dal generale Giardino, che si affrettò a chiedere spiegazioni a Pennella e dal comando supremo. Da quest'ultimo ufficio il generale Cavallero rispose di non saperne nulla, mentre Pennella, dopo aver chiesto a sua volta di spiegazioni a Di Giorgio, rispondeva alle 20 che niente era cambiato nella strategia difensiva. Mentre i comandanti italiani si scambiavano messaggi, Göginger lanciava un nuovo assalto nella speranza di occupare definitivamente il Montello. Al mattino alcune truppe riuscivano ad infiltrarsi tra le linee tenute dalla Barletta, ma nel pomeriggio gli scontri riprendevano furiosi. Sotto rovesci di pioggia intermittenti e con grande sforzo la 17esima Honved riusciva finalmente a liquidare le ultime opposizioni a Nervesa. Le ultime tenaci resistenze opposte da poche decine di uomini saldamente attestati alla stazione, nello spostarsi e combattere durato tutta la giornata, potessero intervenire a difesa. Ci fermiamo un momento? Ci fermiamo un momento e passiamo al terzo. La terza canzone, bravo. Quando me innamoro, cantata da Andrea Bocelli, che la canta un po' in italiano e un po' in spagnolo. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que yo he sufrido de mal de amores y que mi corazón no se ha curado. La mia ragazza sa che non è vero. La mia ragazza sa cambiare, che mi può staccare da lei. Quando me innamoro doi toda mi vida a quien se enamora de mí, y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Luigi che concluderà questa presentazione. Sì, questa battaglia che è stata fondamentale per la guerra, perché è stata, come abbiamo detto, l'ultimo tentativo degli austro-ungarici di sfondare, era stata iniziata proprio dagli austro-ungarici perché? Perché erano in condizioni, sembra strano dirlo, disperate, altrettanto se non di più dell'esercito italiano, perché erano affamati, erano stanchi, erano frustrati da tutte quelle manifestazioni che già nell'impero, in Ungheria, ma anche a Vienna, in Slovacchia, in Cechia e così via, già avvenivano contro la monarchia asburgica e contro la guerra. Per cui questi soldati austriesi sono stati lanciati in questa battaglia preparati, sì, perché erano disciplinati, attrezzati e così via, ma col morale realmente già molto incrinato. E ne è prova questa informazione. Gli ungheresi della 13ª divisione, che avrebbero dovuto assalire e sfondare su Villa Berti, furono ritardati, perché morsi dalla fame deviarono assalendo le cucine della brigata Piacenza, quindi persero tempo, quindi non andarono a conquistare l'obiettivo, ma andarono a mangiare. Si vede che erano talmente stremati. Questa situazione portò, naturalmente, questa situazione anche diciamo lo sviluppo delle operazioni portarono alla diciamo rivincita delle truppe italiane, che ripassarono il Piave nell'ultima giornata di battaglia, e adesso abbiamo Antonio che ce lo racconta. Alla sera il Montello era nuovamente interamente in mani italiane, ma tutte le forze austro-ungariche si erano ritirate senza danni sull'altra sponda, da dove potevano attendere e respingere ogni avanzata. A Roma il presidente Orlando entrò in Parlamento gridando «Buone notizie!» e facendo scoppiare nella sala un'euforia quasi generale, specialmente quando venne letto un secondo bollettino che offriva una visione completamente distorta dei fatti. Gli austriaci ripassano il Piave in disordine. Non sono soltanto battuti, poiché nel settore dove più accanita e lunga fu la battaglia, la loro sconfitta culmina in parziale disastro, di cui non possiamo ancora calcolare la vastità ed il valore. Che però non era tale da spegnere l'arguzia e la lungimiranza del senatore Antonio Cefali, che commentava: «Ma che cacciati! Se se ne vanno vuol dire che se ne vogliono andare!» Non fu solamente la ritirata nemica a costare il posto di comando a Pennella. Secondo la relazione ufficiale, il generale si era dimostrato incapace di valutare correttamente la situazione ed il numero dei nemici e, al momento di stabilire il contrattacco, aveva commesso errori di calcolo nelle tempistiche e nell'organizzazione. La sua sostituzione con il generale Enrico Caviglia avvenne in silenzio, senza che nessuno dei due ne venisse informato prima. Caviglia ricevette il nuovo comando a Piovene e, giunto verso le 23 a Villa Frova, venne ragguagliato sulla situazione dall'attendente, in quanto Pennella stava dormendo. Quest'ultimo seppe del suo esonero il mattino dopo, direttamente dal successore, e si affrettò a trasferirsi a Padova. Ecco, abbiamo terminato questo excursus molto rapido del libro La battaglia del solstizio, che invito gli appassionati di storia a leggere, perché si legge con molta, diciamo, molto piacere. Sì, sì, difatti è un libro molto facile, tra virgolette, non è una manuale tecnico di storia. Esatto. Tra l'altro è arricchito da una serie di piante topografiche che giorno per giorno danno la posizione delle truppe al di qua e al di là del Piave. Bene, possiamo passare al secondo libro, che tratta della Grande Guerra e che è intitolato Fronte Nord-Est, cronache dalla Grande Guerra. Abbiamo detto prima, l'autore Massimiliano Melilli, un giornalista, e lui ha scritto questo libro con lo stile del cronista e la tecnica del narratore. Lui ha messo insieme un quadro con una accuratezza e una vividezza di immagini che conquistano la lettura. Non fa polemiche, non va in cerca di far trionfare delle tesi, ma fa una cronaca fedele di quanto è accaduto nelle nostre terre in quei tre anni terribili. In particolare si concentra la sua attenzione su un avvenimento che è stato anche questo fondamentale sia nella condotta della guerra sia nella formazione della coscienza nazionale italiana, che è la battaglia di Caporetto. Tutti la ricordiamo, Caporetto è diventato un modo di indicare e di definire delle sconfitte brucianti e disastrose. Cosa fu Caporetto? Fu un punto di svolta, fu realmente una sconfitta della disorganizzazione delle alte sfere dell'esercito italiano, ma fu anche una occasione di frequenti e grandi atti di eroismo. Non solo, ma soprattutto, dopo Caporetto ci fu un cambio di passo, ci fu un cambio di mentalità, ci fu una presa di coscienza, e l'esercito italiano, le truppe italiane, modificarono il loro approccio alla guerra. E fu questo fatto, che è accaduto nel 1917, sì, che modificò realmente l'andamento della guerra nell'anno successivo e portò alla battaglia del solstizio e portò poi alla vittoria a Vittorio Veneto e alla riconquista di Trento, Trieste e così via. In questo libro ci sono anche vari capitoli che sono dedicati alla vita delle persone normali nel Veneto. Non si parla solo di battaglie o di rapporti politici o di decisioni dei governi o delle monarchie e così via. Si parla anche di persone qualsiasi. Si parla degli emigranti che con la guerra, da certi paesi che entrarono in guerra contro l'Italia, dovettero rientrare. Quindi crearono dei grandi problemi di controimmigrazione. Si parla delle condizioni dei paesini di campagna che si trovarono coinvolti nella presenza delle truppe straniere. Ci sono degli aneddoti, tra l'altro ne ricordo anch'io, raccontati da mio padre, dai nonni, eccetera. Ci sono degli aneddoti molto, molto, molto curiosi, molto simpatici. E si parla anche del ruolo delle donne, che la Grande Guerra, pur nel suo disastroso effetto generale, portò ad assumere dei ruoli e delle funzioni che gli uomini andati a combattere non potevano più svolgere. Quindi le donne entrarono nelle fabbriche, negli uffici, entrarono dove prima non erano, diventarono le guide delle famiglie che prima non erano. Io direi di cominciare con una prima lettura. Del fronte nord-est. Fin dal settembre del 14 i prezzi dei generi di prima necessità raggiungono livelli di non ritorno. Il costo del pane diventa insostenibile per larghi strati della popolazione. Da Venezia a Treviso a Padova, da Rovigo a Belluno, è una lotta per la sopravvivenza. Lievita così il numero dei senza lavoro, moltiplicato dal ritorno in patria di migliaia di emigranti. Situazione che colpisce quasi tutto il paese, ma soprattutto il Veneto, regione di emigrazione. Rientrano dalla Francia, dalla Germania, dal Belgio. Inquietudini e tensioni sfociano presto nei disordini. Le relazioni dei prefetti dell'epoca testimoniano il clima di diffusa insubordinazione all'autorità costituita di larghi strati della popolazione. Comunque è importante rilevare che nessuno di questi disordini più o meno spontanei è legato alle proteste antiguerra. Nella maggior parte dei casi siamo di fronte a comprensibili disordini esplosi a causa della fame. La farina diventa un bene di lusso. Intere famiglie si ritrovano sul lastrico. L'esercito interviene più volte per sedare gli animi. Durante i primi mesi del conflitto rimpatriano in Veneto oltre 160.000 emigranti, più di un terzo di quelli rientrati in Italia. Un'ondata di persone che si riversa non solo nelle città e nei paesi di origine, ma anche in pianura, in campagna. Per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno, a Bassano del Grappa, tra l'estate e l'autunno del 14 arrivavano oltre 3.000 persone dai paesi europei, quando la popolazione residente non superava le 17.000 unità. Diventano così di carattere quotidiano rivalità, risse e soprusi. È la lotta fra poveri in nome di un malinteso senso di appartenenza al proprio territorio, quella stessa terra che produce sempre di meno e che si svuota progressivamente. È il momento dell'industria bellica. Lo sviluppo dell'artiglieria pesante, dei carri armati e degli aerei pone le basi per forniture da record e per una ripresa delle possibilità offensive. Le grandi industrie fiutano il grande affare della guerra. Ecco, il grande affare della guerra, naturalmente tutti sappiamo che in guerra c'è chi specula e approfitta. Alla fine della guerra, vi dico solo dei numeri, dopo riprendiamo un'altra lettura, che cosa abbiamo avuto? Come dicevo prima, è stato un evento epocale, ma è stata anche una grande strage, e la strage parla di questo. Allora, i dati nudi e impressionanti sono: in Italia 650.000 morti militari e quasi altrettante vittime civili, 1.100.000 soldati arruolati su una popolazione di poco più di 35 milioni di abitanti, vuol dire un maschio ogni 18, ogni 18 maschi. Andiamo a leggere. L'Austria, per porre fine alla grave situazione che si presenta sul fronte Isonzo e per sanare gravi difficoltà interne, dispiega una potente offensiva con il sostegno tedesco per dare una svolta alla situazione. L'8 settembre... Qui si parla di Caporetto. Esatto. Viene firmata un'intesa tra gli stati maggiori austro-ungarico e germanico per un'operazione d'attacco sul fronte dell'Isonzo. Il momento è buono. È possibile condurre un'offensiva contro l'Italia almeno per due motivi che fanno la differenza. L'esercito russo attraversa una fase di disgregazione, mentre sul fronte occidentale, dopo il fallimento dell'offensiva Nivelle, le truppe francesi da settimane si sono assestate sulla difensiva. Poco dopo le 2 di notte del 24 ottobre del 17, la 14ª armata austro-tedesca, formata da 8 divisioni austriache e 7 tedesche, agli ordini dell'ingegnoso generale tedesco Otto von Below, scatena un'importante offensiva chiamata Waffentreue, fedeltà d'armi, contro lo schieramento italiano in corrispondenza delle conche di Plezzo e Tolmino. Lo Stato Maggiore tedesco non si sbaglia. Giorno dopo giorno ha studiato la disposizione delle truppe sul campo con geometrica attenzione. Il generale Kraft von Dell-Mensingen, capo di Stato Maggiore dell'Armata Mista, considera Plezzo e Tolmino le linee più fragili dello schieramento nemico dell'Isontino per raggiungere il fiume Tagliamento. Il 25 ottobre la situazione per l'esercito italiano non è fra le più favorevoli. I troppi varchi nelle vicinanze di Plezzo, Caporetto e Tolmino si ingrandiscono sempre di più, sino a rendere proibitivo arrestare il nemico. Il giorno dopo i tedeschi conquistano Monte Maggiore e si spalancano così la strada per Cividale e Udine. Il 27 ottobre gli eventi precipitano. Il generale Cadorna, capo di Stato Maggiore dell'esercito, ordina la ritirata verso il fiume Tagliamento, alla alla seconda, terza armata e alle truppe della Carnia. Il 28 cade Udine. Dopo una coraggiosa ma inutile resistenza davanti ai ponti del fiume Tagliamento, le divisioni italiane retrocedono sino al Piave. È una battaglia drammatica che passerà alla storia come battaglia di Caporetto. L'esercito italiano viene fatto a pezzi, perde 300.000 uomini, soprattutto prigionieri della seconda armata, 3.500 pezzi di artiglieria, oltre 1.700 mortai e bombarde, quasi 3.000 mitragliatrici. È una batosta, ma il bilancio più drammatico è in termini di vittime. Nei primi giorni dell'offensiva muoiono 10.000 soldati, più di 30.000 i feriti. A ciò si aggiungono inoltre 350.000 sbandati. La sera del 27 ottobre, dopo aver raggiunto Treviso, il generale Cadorna dirama il bollettino di guerra con il quale motiva la sconfitta alla mancata resistenza di reparti della seconda armata vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico. Con il disonorevole bollettino il generale addossa alla truppa la responsabilità della disfatta e non invece errori del suo comando. Però. Ecco, abbiamo letto un brano realmente drammatico. Sì, sì. E adesso rapidissimamente vediamo le condizioni di vita nei nostri paesi in quegli anni. L'enorme dispendio di energie causato dalla guerra, il bisogno sempre più pressante di manodopera in tutti i settori, soprattutto nell'industria bellica, sono alla base di una sorta di invasione di campo femminile nel mondo del lavoro, fino a quel momento territorio naturale degli uomini. Donne tradizionalmente mogli e madri, ora si scoprono operaie nelle fabbriche belliche, postine, impiegate di banca e di uffici dello Stato. È uno snodo cruciale nella storia dell'emancipazione femminile. Antichi tabù e ruoli canonici vengono spazzati via da una nuova e vitale contaminazione dei sessi. Il punto d'approdo di questa intensa opera di rimozione della repressione femminile è un potente slancio verso la libertà. Prendere casa e vivere da sole, uscire con le amiche e senza uomini, assumersi responsabilità in autonomia, ora diventano comportamenti possibili, anche se molto spesso non sono accettati. A livello europeo, dalla fine del 1915, i salari, che aumentano in modo ridicolo rispetto all'aumento del costo della vita, vedono dimezzare il potere d'acquisto delle famiglie. Molti generi di prima necessità, abbigliamento, alimenti, sebbene sottoposti a una sorta di calmiere, in realtà sono proibitivi. Gli espedienti diventano oneri quotidiani. Donne e bambini tagliano l'erba dei giardini pubblici, inventandosi addirittura gustose ricette per cucinare le bucce dei legumi. I prezzi del pane, del latte e della carne si moltiplicano sino a 10 volte il costo reale. Spesso le merci non si trovano neanche. Ciò che invece si trova in abbondanza sono i pidocchi. Nei paesi arrivano reparti inglesi e si accampano nei dintorni. Immaginate lo scenario che si apre in un mondo rurale, chiuso nel proprio ambiente, nei propri usi, nella propria quotidianità. La curiosità verso lo straniero è una componente fondamentale nel quadro delle relazioni personali. Così i bambini vanno a curiosare tra le tende, le armi e i soldati e si portano a casa qualche regalino, tra cui in particolare pidocchi, con disperazione delle madri, e sigarette. Sono spaccati di vita minimalista che irrompono con forza nelle giornate delle comunità locali. Bene, e adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone che è intitolata La nevicata del 56 ed è cantata da Mia Martini. Ti ricordi una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera? Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili poche? Allora, le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane, una donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella. Oh, pari tu. C'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Com'è? Com'è? Tu mi dici di sì, l'hai più vista così, che tempi quelli. Na, na, eccoci di nuovo in studio, a te Antonio la parola. E qui lasciamo la parola inizialmente al nostro ospite, che ci deve introdurre, diciamo, con la poesia questa volta. Sì, abbiamo terminato la lettura precedente parlando della condizione soprattutto delle donne durante la Prima Guerra Mondiale. Continuiamo con una donna speciale che si chiama Anna Akhmatova, in realtà non era il suo vero nome, ma insomma lasciamo stare il vero nome che è difficile, è nota come Anna Akhmatova, russa, nata alla fine dell'Ottocento, vissuta fino al 1960 circa, una poetessa che è stata nella sua nazione amatissima, popolarissima, sia per vicende umane, personali, private, sentimentali, e sia per vicende di tipo culturale e politico, perché ovviamente, come capiamo, ha attraversato tutta la stagione della rivoluzione russa e delle repressioni staliniane, oltre che la prima e la seconda guerra mondiale. Lei è stata sposata con il capo della Corporazione dei Poeti, che poi fu fucilato per ordine di Stalin nel 1921. Suo figlio fu arrestato per ordine di Stalin. Lei però non si sottrasse mai alla sua, diciamo così, sensibilità e sentimento di amore verso la sua patria, tant'è vero che scrisse: non sotto un cielo estraneo, né al riparo di un'ala straniera, io ero allora con il mio popolo, là dove per sventura il mio popolo era. Leggiamo, comunque, ecco, cominciamo a leggere, Antonio, cominciamo a leggere una poesia, un paio di poesie d'amore della prima epoca di Anna Akhmatova, e poi passiamo alle poesie più squisitamente civili. Civili. Allora, amore. Talvolta, acciambellato come un serpente, lancia incantesimi proprio accanto al cuore, oppure tubo di continuo, giorni e giorni, come un colombo alla finestrella bianca. Risplende a volte nella brina luccicante, si intravede nella viola ciocca un po' assopita, ma sa come strapparti di nascosto alla pace e alla felicità. Sa singhiozzare con una tale dolcezza nella preghiera di un nostalgico violino e fa paura scoprirlo in un sorriso ancora sconosciuto. Approfitto, mentre Antonio gira alla prossima pagina, per dire che la traduzione di queste poesie è di Manuela Giabardo e Paolo Ruffilli. Naturalmente. Allora, una seconda poesia d'amore. Ho smesso di sorridere, le labbra gelate dal vento, una speranza è persa e una canzone nuova è nata. E io dovrò riconsegnarla al disprezzo e allo scherno, perché è insostenibile per l'anima il silenzio dell'amore. Ecco il titolo del libro. Esattamente. Il silenzio dell'amore, sì. E poi passiamo alla poesia, sì. Un'orazione civile, diciamo. Introduzione. Fu quando soltanto i morti sorridevano, lieti ormai d'essere in pace, e come inutile appendice dondolava Leningrado accanto alle prigioni, quando, pazzi di dolore, andavano schiere di dannati e il fischio del treno era un breve canto d'addio. Su di noi c'erano stelle di morte e la Russe si contorceva innocente sotto stivali insanguinati e sotto le ruote dei marusi neri. I marusi erano dei furgoni che trasportavano i prigionieri politici nei campi di prigionieri. Sì, sì, sì. E naturalmente alla prigione segue la sentenza. Sì, esatto. E cadde la parola di pietra sul mio petto ancora vivo. Non importa, perché ero pronta. In qualche modo ce la farò. Oggi ho molto da fare. C'è da uccidere la memoria fino in fondo. C'è da mutare l'anima in sasso. C'è da imparare a vivere di nuovo. Se no, il caldo stormire dell'estate è come una festa oltre la finestra. Da molto tempo era in me il presagio di questo giorno luminoso e della casa vuota. Ecco, abbiamo sentito sì, alcune poesie che vi danno l'idea di questa poetessa e del motivo per cui è stata così popolare e così amata nella sua nazione. Passiamo a una seconda poetessa, questa è una poetessa trevigiana, Maria Antonia Maso Borso, della quale abbiamo da poco pubblicato un libro che si intitola Segmenti e contrasti, poesie e aforismi in ordine alfabetico. La poetessa che si è affidato a questo libro, ovviamente non è il suo primo libro, con noi poi è già il secondo libro, ma ne aveva fatti anche altri in precedenza, e questa volta si è dedicata a una particolare forma di scrittura, l'aforisma. L'epigramma. L'epigramma, che è una parola che deriva dal greco e significa scritto sopra, perché in genere inizialmente nacque come una iscrizione posta sui monumenti, posta sui templi, come quello che vediamo adesso in murales, esatto, e così via. Esatto. Ed è un tipo di scrittura che rivela delle verità magari note a tutti, ma trascurate, ma non capite, ma disattese, e acquistando spesso anche dei toni di ironia, di toni aggressivi, toni taglienti, magari anche umoristici e così via. Vediamo di fare qualche lettura per dare qualche esempio, certo, di questi epigrammi. Al passato e al futuro indifferenti, i giovani galleggiano annoiati in tutti i click presenti, ed il loro vuoto è un monito costante. Buon governo non è solo bilancio, ma gestione avveduta e previdente del capitale umano. Casta, orda ben nota di privilegiati che, a danno altrui, hanno le mani in pasta. Hot time. Non servono più i cattivi pensieri, basta cliccare e abbiamo a domicilio le porcate più rare, virtuali, quasi naturali. È vero, è vero, è vero. Ecco, abbiamo dato qualche esempio con queste letture. Chi ama questo tipo di scrittura e questo tipo di visione della realtà trova in libreria questo bel volumetto che si chiama, ripeto, Segmenti e contrasti di Maria Antonia Masobors. Ma sono simpatici molto. Sono molto simpatici, anche molto intelligenti, molto acuti. Sì, acuti, decisamente. Si capisce che vengono da una esperienza di vita. Distillato, molto attenta, diciamo anche graffiante. Molto attenta, attenta agli aspetti che normalmente si trascurano. Benissimo, sì. E ora dedichiamo gli ultimi minuti, che sono pochi. Abbiamo pochi minuti, facciamo una rapida introduzione di questo autore che si chiama Luca Canali, che è mancato nel giugno del 2014 e che è stato per lungo tempo, lui è vissuto 89 anni, è stato un latinista famoso, è stato un saggista, poeta, narratore, è stato insomma un produttore di opere letterarie e culturali infaticabili. È un grande personaggio del mondo culturale italiano del secolo scorso. Che cosa abbiamo noi a che fare con Canali? Canali ci ha affidato, prima di morire, due manoscritti. Uno è il manoscritto di un romanzo che abbiamo pubblicato col titolo Nostro male quotidiano, e un altro è il manoscritto di un libro un po' speciale che noi abbiamo pubblicato in una nuova collana che si chiama Edizioni Critiche. Perché? Perché è un, intanto è intitolato I versi del Satiricon, tutti ricorderemo, quelli che hanno avuto occasione di fare questo tipo di studi, che il Satiricon è un testo di Petronio della Latinità e comprende sia parti in prosa che parti in poesia. Canali l'ha tradotto tutto, l'ha studiato ampiamente e dettagliatamente e ci ha dato la traduzione di tutti i versi interziati in questa prosa, versi che abbiamo noi messo nel nostro libro con traduzione a fronte, in latino con traduzione a fronte, e completati per ogni testo poetico, completati con il contesto e il commento curati da Luca Canali e Silvia Stucchi. Un libro interessantissimo per chi ama questo tipo di cose. Ma torniamo al romanzo, il romanzo intitolato Ma il nostro male quotidiano. Perché è intitolato così? Abbiamo poco tempo. Pochissimo, ma lo facciamo, diamo un contesto della storia. Ecco. È intitolato così perché Canali ha una visione della realtà che è una visione dura. Lui vede la realtà come una serie di succedersi di violenze, di sangue, una incessante, ha detto un critico, scarnificazione dell'anima, non solo dell'anima ma anche della scrittura. La sua scrittura è assolutamente sintetica ed è essenziale, come la sua idea della vita. Questo libro parla di guerra, di fascisti, di partigiani, del dopoguerra, di amori, di amanti, di rivalità, ma anche di tradimenti, vendette, di uomini di valore e di uomini inclini al compromesso, di uomini che si dedicano alla politica più deteriore o a quella più pura. La protagonista di questo libro è una donna che vive una vicenda dal tempo di guerra, tempo della Seconda Guerra Mondiale, quindi lotte partigiane, lotte fasciste, fino agli anni 70, quando ritorna al paese che l'ha vista appunto protagonista di quelle lotte partigiane. Entra in politica perché è chiamata per le sue doti di onestà e di chiarezza e va incontro a una fine tragica per le sue esigenze di onestà e di chiarezza. Perfetto, e noi dobbiamo concludere così, lasciando naturalmente questo retrogusto e questa curiosità alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per la prossima volta. Grazie, alla prossima volta. Grazie, ingegnere, di essere intervenuto alla nostra trasmissione e di aver fatto un escurso così valido dei libri presentati. Bene, anch'io vi saluto affettuosamente e vi dico ciao ciao.